Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. 20ª puntata. Laura era in piedi accanto all'altare, attenta in apparenza alla lettura del suo libro d'ammessa. Luca, all'aperto, nell'ultima fila degli uomini, li dominava a tutti con la sua statura. Il suo sguardo vagava dal cielo al cumulo delle donne inginocchiate. I suoi capelli erano mossi dal vento che di tanto in tanto scendeva dalle regioni alte dell'atmosfera per ingolfarsi tra il timbrone e il sellao. Poi radeva la terra gonfiandosi di polvere e di ira. Le donne si raccoglievano le vesti sulle gambe, si annodavano il fazzoletto sotto il mento e volgevano lo sguardo in giro. Vedevano nei propri occhi riflettersi quelli delle compagne, vaganti e appenati. Don Giacomo continuava ad officiare lento, col viso pallido, leggermente chinato sul messale. Di tanto in tanto si rivolgeva ai fedeli a braccia allargate. La sua voce annunziava che il Signore Iddio era con i contadini di Morutri. A un tratto, un lampo solcò le sfere alte del cielo e il tuono rimbombò nella valle del Calandro. Le donne si coprirono gli occhi e si segnarono, baciandosi la punta delle dita, alzando poi la mano al cielo. Immacolata Marano guardò Luca e sospirò profondamente. Al primo lampo ne seguì un secondo. L'aria si fece improvvisamente nera. Il vento si spense, frusciando tra la gramigna secca del sacramento. Le donne chinavano la testa verso il suolo, gli uomini guardavano il cielo con gli occhi dilatati dalla collera e dallo spavento. Non si udiva che la voce del sacerdote che leggeva il Vangelo. A un tratto, Marco Cece si frugò nella tasca dei calzoni, estrasse il coltello a serramanico, ne fece scattare la molla e poi, con un gesto crudele, lo piantò in terra. Gli uomini si volsero, si guardarono negli occhi come per comunicarsi la comune decisione, trassero i coltelli e li piantarono ai loro piedi. Compiuto l'antico scongiuro magico, rialzarono il capo e guardarono le nuvole. Il vento raccolse dalla terra il suo piccolo disperso respiro e si impennò ancora, lentamente, nell'aria. La messa era finita. Nei giorni seguenti tornò il sole e i contadini di Morutri e di Pietrafolca si sparsero nelle terre del Sacramento. L'ingegner Tallei, seguito da Luca e da due aiutanti, lavorò per settimane, dall'alba al tramonto, per assegnare le quote. I contadini percorrevano il campo che avrebbero dovuto coltivare, raccoglievano un pugno di terra, lo sbriciolavano nelle palme congiunte e poi lo lasciavano cadere come un rivolo tra le dita. Qualcuno con un sarchio saggiava la profondità del terreno fruttifero e gli capitava di trovare sassi sotto il primo colpo. Allora correva dall'ingegnere smaniando, bestemmiando perché era stato frodato nell'assegnazione. L'ingegnere prometteva di andare a vedere, di rifare le misurazioni, di assegnare una quota supplementare. Era paziente, gentile, ma era affaticato. La sera diceva a Luca che non gli sarebbe stato possibile resistere a lungo. Al quarto giorno, un gruppo di contadini di Pietrafolca che si lamentavano della qualità dei loro terreni litigarono con i confinanti di Morutri. Due donne scavalcarono il muretto appena iniziato e cominciarono a demolirlo. Accorsero gli uomini coi bidenti e i falcetti in mano. Si guardarono nel bianco degli occhi con una dolorosa volontà omicida. Si udirono gli urli delle donne, Da tutti i lati arrivavano a precipizio altri contadini. Michele Marano, che lavorava in un terreno vicino, si buttò tra i litiganti a braccia levate. «Niente sangue sulle terre del Sacramento! Andiamo a chiamare Luca e l'ingegnere! Si parla! Ognuno dice le sue ragioni e ci si rimette d'accordo!» Gli uomini abbassarono le zappe e decisero di attendere Luca e l'ingegnere. E Luca arrivò con l'ingegnere e i due agrimensori. Riguardarono le mappe, spostarono i confini della zona riservata al pascolo a valle di Cecanibbio e la calma tornò. Ai primi di giugno incominciò a piovere dolcemente. Piove per 3 giorni e l'acqua temprò la terra. Tornato il sole, i contadini si misero a zappare. Si avventarono sulle zolle con impeto guerriero, come se volessero finalmente domare quei campi selvaggi. Raccoglievano i sassi e ne facevano macerie come tumuli di antichi sepolcri. Costruirono muri di cinta per i confini. Dove la terra umifera era scarsa e affiorava la rena compatta e gialla del sottostrato, i contadini trasportavano la buona terra che le alluvioni in tanti anni avevano ammonticchiata altrove. I ragazzi trasportavano la terra a spalla dentro le corbe e i canestri di canna intrecciati durante l'inverno. Le donne, inginocchiate, la spargevano con dolci colpi di zappa o con le mani. Un gesto largo e leggero, come una carezza. Dove erano capitate ulivelle stente, antiche, corrose dalle intemperie, le radici furono scalzate, coperte prima di letame e poi di buon terriccio. Nelle zone scoscese facevano piccole dighe con i sassi accumulati per arginare il futuro scorrere della pioggia. Lavoravano dall'alba al tramonto, mangiando un tozzo di pane e bevendo l'acqua che le donne andavano a prendere a Fonte Spidalieri, nei pressi della cappella. I pastori, che avevano in assegnazione una parte della terra nei pressi di Macchia Loreto, erano costretti, per trovare altra erba, a condurre i branchi lontano 10 miglia, verso i costoni delle Mainarde. «Se continua così, bisognerà vendere le pecore», diceva Paolo Parente, «e la pecora aiuta a campare come il pane. Ma l'anno venturo ci saranno i prati», diceva Luca, «prati piantati apposta, e ci sarà tutta l'erba che occorre». «Pianteremo, faremo», rispondeva Paolo Parente. «Tante cose si dicono. Avevi detto anche che ci avrebbero pagato 30 giornata per il lavoro che facciamo. Non si è visto un soldo finora». «Verrete pagati, tutto in una volta», rispondeva Luca. «Quello che è promesso, è promesso». Ma Luca stentò a farsi dare una piccola somma da uno degli agrimensori che teneva l'amministrazione provvisoria dei lavori. Dopo aver tentato 4 o 5 volte e inutilmente di parlare con Laura, un giorno riuscì finalmente a vederla nello studio Iannaccone. «Non è facile procurarsi del denaro», gli disse. «Sono stata a Napoli 3 volte. Lei non può immaginare il numero delle garanzie, degli avalli che occorrono per ottenere poche migliaia di lire. Dica ai contadini di Morutri di attendere, pazienti. Avranno tutto». Poi aveva chiesto notizie dei lavori. «Vanno bene, eh? Lei dice che tra 15 giorni non si riconosceranno le sterpaie del Sacramento?» «Son contenta», aggiunse con un sorriso. «Questo lo devo in gran parte anche a lei. Saprò provarle la mia gratitudine. Abbia pazienza, anche lei». E lo guardava fisso negli occhi e aveva una piega di malinconia nella bocca. «Se potessimo fare quello che vogliamo», disse ancora. Lei non immagina come è dura la mia vita. Era la prima volta che Luca la sentiva fare un'allusione alla sua segreta tristezza. Ebbe una profonda pietà per lei, un sentimento che gli parve ponesse a un tratto la donna al livello della sua amichevole comprensione. Disse: «Forse lei ha troppe preoccupazioni. Le terre vanno bene, sa? I contadini...» Poi si confuse, arrossì, due idee si accavallarono nella sua mente e chiese a precipizio: «Come sta suo marito?» Laura ebbe un gesto vago, come per dire che si trattava di cosa troppo complicata per essere spiegata rapidamente. «È guarito dalle ferite, ma l'impressione è stata grave. Dovrà allontanarsi da Calena questa estate. Non esce. Afferma che non può assolutamente più vedere i suoi concittadini.» «Calena, è terribile. Calena», fece Luca, e non seppe dire altro. Luca ottenne ancora una piccola distribuzione di denaro alla metà di giugno. I contadini se ne servivano per comprare qualche chilo di farina e per far riparare le zappe, le vanghe, gli aratri che si spezzavano come canne secche tra i sassi delle terre. Reggevano alla fatica prodigiosamente. Alcuni si mangiavano le provviste tenute in serbo per la mietitura. Altri facevano debiti con Don Carmine Fella e Don Stefano Staniscia, i quali avevano fatto una transazione coi Cannavale per le terre usurpate. Era comparso anche un tale che si vedeva qualche volta al circolo di Calena e che era amico del proprietario della centrale elettrica. Anche lui faceva piccoli prestiti con cambiali in bianco, calcolando in anticipo gli interessi. Un giorno capitò alle terre Pasquale Ficetra per riportare una dozzina di paia di scarpe riparate ai contadini. Disse a Luca: «Ho saputo che i morutrensi fanno debiti per comprarsi gli aratri e gli asini. Sta attento, Luca. Diglielo tu. Non devono far debiti. Mi ha detto Don Carlo Colonna che le masserie di Befagna 50 anni fa erano terre demaniali. Furono assegnate ai contadini di Pietrafolca. Adesso sono tutte in mano a Don Benedetto Ciampitti. Il padre di Don Benedetto aveva prestato ai Cafoni il denaro per il seme. Sta attento, Luca. Li fregano un'altra volta. Diglielo tu, che puoi farti ascoltare.» La sera Luca riunì i contadini al fondaco di San Carlo e fece le sue raccomandazioni. Seppe che molti avevano già firmato le cambiali. Gli altri promisero di stare attenti, di resistere. Uno disse: «Potremmo pagare tra qualche giorno, quando andremo nella piana a mietere.» Marco Cece rispose: «C'è grano cattivo quest'anno nella piana. Ed è già tardi per scendere. Anche il nostro grano non è buono. Paglia alta e spiga leggera.» Da quel giorno, per non far debiti, vendettero qualche pecora, qualche capra. Incominciarono a prestarsi tra loro le giornate di aratura. Chi aveva un asino lo aggiogava con quello del vicino. I braccianti prendevano in affitto le coppie di asini, promettendo di scomputare l'affitto con giornate di lavoro. Erano contenti di fare da soli, ma si preoccupavano per il seme, per i concimi che erano stati promessi. Alcuni dei più impazienti già reclamavano il contratto per l'enfiteusi e ne parlavano a Luca. Luca tentava di spiegare che era impossibile fare il contratto se prima non si liberava il feudo da tutti i debiti. «Volete la terra coperta dalle ipoteche?» diceva. «Ci vuole terra libera, terra franca, ma i padroni debbono trovare il denaro e il denaro non lo trovano se la terra non è stata coltivata. Si aspetta anche la decisione del tribunale per la causa degli usi civici. È stato raggiunto l'accordo delle parti, ma il tribunale deve deliberare. È un secolo che le terre sono abbandonate. Non si rimedia in 15 giorni. I contadini si persuadevano e attendevano. Era impossibile per loro dubitare delle parole di Luca Marano, figlio di Seppe Marano, uno dei loro, un ragazzo compagno dei loro figli e che aveva mangiato per 20 anni il pane amaro di Morutri. Qualcuna delle cose che Luca aveva promesso in nome di Laura si veniva facendo. Si stavano scavando le fondamenta per 2 grandi case coloniche nei pressi di Macchia Loreto. Vi lavoravano 10 di muratori di Calena con altre 5 di Pesco Pennataro che avevano ricostruito la cappella. Ogni tanto qualcuno dei contadini andava a vedere i progressi del lavoro. Le masserie si chiamavano ormai masserie degli olmi per un filare di piante che contornavano il terreno. I contadini non avevano dato un nome soltanto alle masserie nuove, avevano battezzato ogni contrada, ogni podere delle terre del Sacramento. Nomi nuovi che richiamavano quelli antichi, creati per una accidentalità del terreno, ispirati da un gruppo di piante, dalla punta di una roccia, dal soprannome di una famiglia. Le terre del Sacramento rinascevano lentamente e prendevano voce e nome per opera di quelli che le venivano dissodando. E un giorno riapparvero anche i morti. Fu sotto Ceccanibbio, nel podere della famiglia di Michelangelo Vincelli. Uno dei figli di Michelangelo sentì sotto il bidente una mattina un teschio di cristiano schiacciarsi come una noce. Si chinò e con le mani scavò gentilmente la terra intorno alla testa del morto. Si fece il segno della croce e continuò a scavare con cautela. Trovò tutte le ossa dell'antico cadavere e i chiodi arrugginiti della cassa funebre. Tutto il tratto del podere dei Vincelli, corroso dalle acque, era disseminato di scheletri. Dai poderi vicini accorsero altri contadini, chiamati da Michelangelo, e si misero a seguire a filo di zappa quell'antico semenzaio di ossa. Gli abitanti di Morutri avevano sempre sentito parlare di un cimitero nel quale venivano seppelliti i cadaveri dell'antico villaggio rurale che un tempo esisteva nel feudo accanto a un convento di benedettini. Nessuno, però, aveva mai saputo indicare precisamente il luogo che aveva accolto tanto tempo prima la gente morta che aveva lavorato le terre del Sacramento. Ora, sotto le zappe di Michelangelo Vincelli, di Lisandro Procaccitto, di Matteo Mastro di Nardi, di Valentino Precopio, le ossa tornavano alla luce, incrostate di terra scura, come radici di piante pietrificate. Via via, intorno agli scavatori, si era fatta una siepe di donne e di ragazzi che spiavano l'affiorare di un teschio, di una tibia, col fiato sospeso. Dopo qualche ora, ai margini del campo c'era un cumulo di ossa. Decisero di seppellirle nel podere di Vincelli. Scavarono un fossato profondo e chiamarono i muratori per fare un letto di pietre e cospargere gli scheletri di calce. Poi coprirono il cumulo di terra e sulla terra fecero una maceria di sassi. Antonio Antonacci disse: «Voi li avete seppelliti qui? Ma io dico che per la legge dovrebbero andare al cimitero di Morutri». «Ma che legge dici?» fece Marco Cece. «Sono morti qui e qui devono rimanere». Tutti fecero un cenno di consenso alle parole di Marco, e quando Antonio Caruso mise sul cumulo una croce di legno, tutti si segnarono e pensarono ai loro morti. Da quando si occupava dei lavori alle terre, Luca alla sera preferiva tornare a Morutri, che era più prossima al feudo. Durante il giorno non aveva l'impressione di compiere un lavoro faticoso, ma la sera, quando rientrava, dopo aver mangiato, gli si velavano gli occhi dalla stanchezza. Avrebbe dovuto riscuotere alcune centinaia di lire in compenso del suo lavoro, ma non aveva ottenuto fino allora che qualche piccolo acconto. L'agrimensore di Pietrafolca, che si occupava delle paghe degli operai, gli aveva detto che attendeva fondi. «Ho parlato col notaio Iannaccone», aveva aggiunto don Primiano la Zazzera. «È lui che ha in deposito il denaro di donna Laura Cannavale. Ha detto che aspetta un assegno da Napoli». «Donna Laura è partita, don Luca», aggiunse con cordiale cortesia il perito. «Bisogna aver pazienza». L'agrimensore era un uomo bonario, di viso rubizzo, che beveva insaziabilmente. Era di umore festoso, sempre pronto alla chiacchiera, agli scherzi. Un pomeriggio aveva trovato, accanto alle masserie degli Olmi, Antonio Antonacci e tre altri contadini che avevano portato in dono ai muratori alcuni panieri di ciliegie. I muratori avevano offerto del vino in cambio delle ciliegie. Contadini e muratori parlavano dei lavori futuri delle terre. «Avrete da lavorare 2 o 3 anni con noi», diceva Antonacci. «Dovete fare una masseria per ogni podere e staremo molto tempo insieme». Don Primiano, che era già pieno come un otre, si era fermato ed ammirando quella buona armonia tra uomini che lavoravano insieme, si era sentita l'anima piena di allegra tenerezza. Quando Antonio Caruso gli andò incontro festosamente con un bicchiere colmo in mano, prima di bere volle abbracciare il muratore. «È giusto che Don Primiano non possa avere lui i soldi delle giornate. È un uomo troppo buono», pensava Luca, che assisteva alla scena. Nello stesso tempo si chiedeva che cosa avesse mai a che fare il notaio Iannaccone con l'amministrazione delle terre. In ogni modo sarebbe andato una volta o l'altra da Iannaccone anche per farsi dare quello che spettava a lui. Ma non subito. Era meglio che lasciasse accumulare i quattrini. Gli sarebbero stati necessari per andare a fare gli esami a Napoli, in ottobre. A giugno non era potuto andare. Non aveva avuto tempo di aprire un libro. Durante tutto il giorno era costretto a correre per parlare con i contadini che litigavano. E quando non era sulle terre doveva completare l'elenco delle famiglie con tutti i componenti. Tutti quelli che avevano avuto la assegnazione avevano bisogno per il futuro contratto di un certificato anagrafico e di un estratto catastale. L'estratto catastale serviva per districare gli infiniti litigi per presunte ingiustizie commesse a favore di qualcuno che, essendo già proprietario di altre terre, aveva ottenuto un'assegnazione maggiore di quella che gli spettasse. Luca si era dovuto recare a Pietrafolca e aveva passato intere mattinate nell'ufficio comunale di Morutri. Lavoro minuto, faticoso, intricato. Il vecchio cancelliere, che aveva dovuto restituire le terre usurpate, gli buttava davanti grossi registri del catasto, rifiutando di dargli spiegazioni. Gli diceva: «Voi sapete leggere? Qui c'è scritto tutto». Era il vecchio catasto di Re Gioacchino, che rimontava al 1808. Riportava i nomi degli intestatori delle terre dopo la prima eversione della feudalità, ma aveva raramente le annotazioni dei passaggi seguenti di proprietà e delle volture. «In altre province c'è stata la perequazione fondiaria e c'è il catasto nuovo, ma qui non c'è. C'è quello vecchio e solo i vecchi lo sanno leggere». E don Raffaele Spidalieri rideva malignamente ammiccando a don Domenico Auriti, lo scrivano che si puliva la penna sui capelli ogni 5 secondi e sogguardava Luca di sotto in su, scavalcando le lenti che portava inforcate a metà del naso. Luca leggeva Michele Procaccitto ed eredi Vincenzo Petrecca, tomoli 2, mezzetti 1, misure 12. Contrada San Benedetto dell'Infornata, confinante con eccetera, eccetera, eccetera. Ma era quello veramente il campo di Michele Procaccitto, detto della Callara? O apparteneva a Giovanni Procaccitto, detto Mosca, che era figlio di Michele? O a Pasquale Procaccitto dei Ciaralli, che aveva il padre che si chiamava Vincenzo? Lo stesso quesito si presentava per i Cirella e per i Marano, per i Mastro di Nardi, per i Papara. Un Petrecca seguiva a un Petrecca, un Marano a un Marano, e i Vincenzo si alternavano ai Pasquale, o i Michele ai Matteo, come i quadretti di una scacchiera, uno bianco, uno nero, uno bianco, ma il ritmo si confondeva nella memoria dei nipoti. «Io sono Michele», diceva Procaccitto a Luca, «e sono dei Mosca. Vincenzo, mio padre, aveva preso in moglie una della Callara. Tatone era Michele ed era pure lui dei Mosca». «E poi?» chiedeva Luca. «Poi», rispondeva Michele Procaccitto grattandosi la testa, «poi, come si fa? Sono morti antichi, e i Mosca e i Callara sono tutti parenti sottoterra». Luca era riuscito, interrogando i contadini, confrontando i dati, inducendo in qualche caso Don Primiano la Zazzera a recarsi sul posto per fare i rilievi in base alle mappe municipali, a ricostruire i passaggi di proprietà. Se avesse potuto liberamente consultare l'archivio parrocchiale, il suo compito sarebbe stato più facile, ma non osava chiederne il permesso a Don Settimio. Vedeva raramente il prete, che ormai non usciva quasi più di casa. Quando Don Settimio scorgeva di lontano il giovane, faceva con la destra un cenno che era di minaccia e di rammarico insieme. Ma nonostante l'impossibilità di consultare l'archivio parrocchiale, la difficile lettura del catasto, Luca era riuscito a orientarsi nell'intrico delle parentele e delle eredità che riguardavano brani di terreno ai margini di Befagna, del Sacramento. Una varia costellazione di poderetti scoscesi, dirupati, irti di sassi o ricavati tra due marrane con una paziente fatica durata decenni. I contadini si andavano convincendo che nella mente di Luca ci fosse ormai tutto quello che essi stessi avrebbero dovuto sapere dei loro interessi, della storia individuale e delle loro famiglie. Non dicevano «Luca sa», «Luca conosce», ma «Luca ricorda». Pareva che la notizia esatta dell'età del giovane fosse scomparsa in loro, che Luca fosse diventato coetaneo di tutti i Cafoni di Morutri. Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.